È difficile in questo mondo imperfetto soddisfare davvero tutti, soprattutto quando si tratta di dirimere opposti di vista o prendere posizioni su questioni controverse. Chi poi per necessità o vocazione esercita l'arduo mestiere del giudice sembra escluso a priori da ogni possibilità in tal senso. Terzo, tra due parti opposte, il giudice deve comunque pronunciare una sentenza che, se accontenterà l'accusatore, spiacerà l'imputato e viceversa. Potrà scontentare tutti e due, naturalmente, perché la natura umana è quello che è, ma farli contenti entrambi, beh, sarebbe un'impresa davvero molto difficile. Eppure bisogna ammettere che i giudici del riesame del Tribunale di Napoli sono riusciti ad avvicinarsi quanto umanamente possibile a questo paradossale obiettivo. L'ordinanza con cui hanno ridato la libertà agli 8 agenti e funzionari di polizia messi agli arresti domiciliari dai loro colleghi della procura per i noti fatti del 17 marzo 2001 è stata accolta da una rara unanimità di consensi. Arlegitti avevano sponsorizzato l'accusa. I primi hanno apprezzato la sostanza di un provvedimento che, rimettendo in libertà i singoli questurini, ha reso il debito onore alla questura e alle forze di polizia nel loro complesso. I secondi non hanno potuto certo lamentarsi di un dispositivo che, per citare una fonte non sospetta come il Corriere della Sera di giovedì scorso, non nasconde la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nel senso che la loro condotta è risultata violenta, vessatoria e in palese violazione delle norme di legge, i testimoni a carico appaiono allo stato dei fatti complessivamente credibili e nel complesso può dirsi acquisito in termini di consistente certezza letterale che sono state eseguite perquisizioni con modalità assolutamente umilianti e vessatorie e che i ragazzi fermati nel corso della permanenza in caserma hanno subito maltrattamenti particolarmente violenti riportando lesioni causate dalla reiterata inflizione di pugni, calci e colpi di manganello. Un trattamento nel complesso piuttosto difforme da quello che sarebbe stato lecito attendersi da parte della polizia di uno Stato democratico, almeno come siamo abituati a vederla dipinta nelle più note serie di telefilm. Che con tutto questo li abbiano rimessi a piede libero, i poliziotti, dico, non deve tuttavia stupire nessuno. Il paradosso è soltanto apparente. Non tutti i comportamenti scorretti comportano l'incarcerazione immediata e quei poliziotti, a detta dei loro giudici, pur avendone fatte di ogni, non si erano mai resi colpevoli del reato per cui li avevano arrestati. Le loro gesta, a quanto si legge, vanno considerate l'espletamento di attività di polizia consentite dalla legge, poi attuate con modalità irrituali e illecite, e non certo un'azione finalizzata a tenere in una situazione di vincolo soggetti rei ad aver partecipato a una manifestazione. Insomma, non avevano sequestrato nessuno e siccome l'accusa che aveva determinato l'arresto era appunto quella di sequestro di persona, non era davvero il caso di tenerli dentro. Personalmente mi permetterò di non fare commenti. Ho come la vaga impressione che ci sia qualcosa che non funzioni, nel senso che non mi è chiaro come stia in piedi il concetto di attività lecita attuata illecitamente e non vedo bene come si possa sottoporre chi che sia a trattamenti umilianti e vessatori senza Oltretutto, tra l'ipotesi di tenere qualcuno, se possibile, in libertà, sono sempre stato di tutto cuore per la seconda e non sarò certo io a protestare se per una volta la sia applicata. Speriamo solo che la tendenza in tal senso prenda sempre più piede nella magistratura, anche nel caso che i soggetti interessati non appartengano alle forze di polizia e non possano vantare i molti meriti relativi. Comunque, da tutta la faccenda mi sembra si possa ricavare una specie di morale, o piuttosto un consiglio, a uso di quanti corrono per un motivo o per l'altro il rischio di trovarsi in ceppi di fronte alla maestà della legge. Abbiano cura costoro di farsi accusare di reati gravissimi, affatto sproporzionati se possibile ai fatti di cui devono rendere conto. Non temano le imputazioni più spropositate, ne saranno doverosamente prosciolti e vedranno che la cosa comporterà per qualche misteriosa facoltà transitiva una specie di tacita assoluzione da qualsiasi altra accusa, un benefico colpo di spugna sulle eventuali azioni disdicevoli che possano avere per avventura commesso. Perché insomma, se vi assolvono da un'accusa grave e infamante, come quella di sequestro di persona, per esempio, che è roba da banditi sardi, mica paglia, a chi volete che importi del resto? Cosa mai conteranno, tanto per dire, tre schiaffi e due manganellate? Lo sanno tutti che le caserme non sono convitti per educante, qualsiasi cosa in contrario possa capitare di vedere in televisione. Al massimo, per male che vada, vi addebiteranno un comportamento un po' irrituale, l'attuazione illecita di un'attività lecita, appunto, una bagatella, che non vi costerà neanche un giorno di sospensione dal servizio. È un po' lo stesso principio per cui il Berlusconi, che di queste cose se ne intende, non ha niente in contrario a farsi definire un tiranno, termine che con tutta evidenza non gli compete, non fosse altro che per quel certo alone tragico che lo caratterizza dai tempi di Creonte e di Antigone, e invece si incavola mica male se gli si rinfaccia un semplice banalissimo conflitto di interessi. Succede un po' come tra i pesci: l'accusa grossa si mangia la piccola, e buonanotte. Il metodo è un metodo forse un po' tortuoso per far riconoscere la propria innocenza, ma una certa tortuosità, lo sappiamo, fa parte a titolo pieno del patrimonio ideologico di questo nostro felice paese.